Abbiamo una tappa importante, cioè per adesso siamo riusciti a trovare un immobile carissimo, però per non far morire il percorso e per dare continuità al lavoro che abbiamo svolto in questi anni abbiamo deciso di prendere un immobile in via Maserati 5 in affitto, però ovviamente i prezzi degli affitti, ma non solo, anche delle utenze sono prezzi folli. Però per il momento teniamo botta, abbiamo riaperto adesso e vedremo, insomma. Comunque sicuramente non sarà la nostra casa definitiva, però è una transizione importante. Dicevi dei costi, sia l'affitto che il caro bollette che stanno vivendo tutti, come pensate di sostentarvi? Semplicemente abbiamo ampliato l'offerta, non abbiamo assolutamente intenzione di alzare i prezzi rimangono quelli, diamo a tutte e a tutti la possibilità di poter praticare lo sport anche senza soldi, continuiamo, abbiamo ampliato l'offerta, abbiamo messo dentro nuove persone, nuovi istruttori, abbiamo aperto altri corsi, abbiamo implementato la Muay Thai, abbiamo aggiunto il powerlifting e l'allenamento funzionale, stiamo mettendo dentro il Brazilian Jiu Jitsu, lo yoga si è espanso, insomma cerchiamo un po' di tener botta allargando i numeri, ecco. Quindi mantenete l'approccio della Bolognina Box? Assolutamente sì, anche se le utenze e soprattutto l'affitto è triplicato, qua non c'è niente da nascondere, lo diciamo a tutte e a tutti, paghiamo 4.026 euro al mese solo di affitto, più un altro migliaio di utenze, noi non vogliamo e non dobbiamo alzare le quote, non è giusto che ci dobbiamo rifare sulla nostra utenza, sui nostri soci, sui ragazzi e le ragazze che tutti i giorni animano questo spazio, ma semplicemente proviamo ad ampliare l'offerta, tra virgolette, dello sport popolare, cerchiamo di arrivare fin dove possiamo arrivare, ecco, coi corsi ci stiamo provando, abbiamo due sale, per fortuna abbiamo trovato circa 800 metri quadri di palestra divisa in due sale, in una sala è completamente dedicata allo sport da combattimento, in primis il pugilato, c'è un ring con più di 15 sacchi montati con lo specchio, e nell'altra sala è un po' più dedicata invece agli altri tipi di sport, c'è la sala pesi, insomma ci stiamo provando, ce la stiamo mettendo tutta, non vogliamo mollare, non molleremo e vediamo come andrà a finire. Per la ricerca di questo spazio avete avuto, come dire, degli aiuti, delle facilitazioni da parte dei vari soggetti istituzionali o ve la siete trovati da soli? E noi la palestra l'abbiamo trovata noi attraverso Matteo Fogacci, che è membro del CONI e anche giornalista di Stadio, che penso che conoscerete bene. L'immobile abbiamo trattato sull'affitto anche grazie a una lettera del comune, dove diceva in sorta che siamo attivi con diversi bandi con loro, ecco. E allora insomma non resta che come dire rivolgere a tutti gli ascoltatori, qualora ne avessero voglia, di venire a trovarvi in via Maserati 5, hai detto, giusto? Via Maserati 5, assolutamente, ci sono a disposizione tre prove gratuite, anche per capire un po' come è strutturata la Bolognina Box e l'offerta che facciamo dei vari corsi, ne abbiamo tanti, quindi abbiamo detto diamo tre prove gratuite in modo che tutte e tutti possano venire a provare i nostri corsi. Ovviamente lo voglio ribadire, i costi sono contenuti, abbiamo bisogno comunque di riuscire a rimanere aperti, ma è importante sempre da ribadire e da dire che si può praticare lo sport, il pugilato e tutti gli altri corsi anche senza soldi. Questo è importante da dire, soprattutto in un momento in cui c'è la stretta sulle bollette, c'è la stretta sul caraffitti. Noi ci siamo e faremo di tutto per rimanere aperti e per dare a tutti la possibilità di, nel nostro piccolo, di l'accessibilità allo sport.